galera per voyeurismo, una delle sue grandi passioni. Così era iniziato il 55 per Little Richard. Conoscevo una ragazza di nome Fanny. La portava in giro in macchina a rimorchiare qualcuno che potesse fare sesso con lei. Li faceva accomodare sul sedile posteriore e con le luci accese si godeva lo spettacolo. Una sera, in una stazione di servizio, venendo coi tre in macchina, il benzinaio chiama la polizia e il leader Richard finisce dentro per condotta lasciva. Passa tre giorni in carcere, poi al processo l'avvocato difensore, sicuro della condanna, giura alla corte che il suo assistito sparirà dalla circolazione, lasciando immediatamente la città. Richard va a Houston, dove incide dei pezzi per la Peacock Records, che vendono pochissimo. L'unico che si salva è questa Little Richard's Boogie, con l'aiuto di Johnny Otis. Esibizioni con i suoi Upsetters viene notato da Lloyd Mr. Personality Price, che gli consiglia di mandare una demo alla sua casa discografica, la Specialty. La demo rimane dimenticata negli scaffali, nonostante l'insistenza di Richard con lettere e telefonate per ascoltarla. Scoraggiato, torna a Macon a fare il lavapiatti nella tavola calda della stazione degli autobus della città. È nel locale, o secondo altre fonti nel bagno, che conosce la persona che gli cambierà la vita. Il suo nome è Eskew Reader Jr., ma vorrebbe sfondare nel mondo della musica come Escherita. Escherita è già ai tempi una versione esagerata di Little Richard. Pompadour di mezzo metro, lunghi baffetti sottili, occhiali da sole tempestati brillantini, abiti sgargianti e una forma percussiva e indiavolata di suonare il piano. Tutti elementi che verranno rubati da Pennyman per diventare Little Richard. Herb True, proprietario della Specialty, dopo il successo di I Got a Woman, voleva qualcuno che suonasse come Ray Charles e incarica il suo produttore cacciatalenti Robert Blackwell, detto Bumps, di scovare. Bumps sente la demo di Richard che conteneva due pezzi, I'm Wondering e Is My Star, e nonostante la pessima qualità, rimane colpito da quella voce estremamente gospel. Una volta messi in contatto, vanno tutti a New Orleans agli studi di Cosimo Matassa e il fiorfiore dei musicisti che suonavano per Fats Domino. Il maestro della batteria Earl Palmer e quello del sassofono Lee Allen. Registrano vari pezzi, ma niente di che. Richard è molto nervoso e contratto, per niente a suo agio. Oh, yeah. Visto lo schifo, Bumps propone una pausa per mangiare qualcosa al Dew Drop Inn. Nella sala di quell'istituzione della Big Easy c'era un pianoforte e Richard si mette a suonarlo. Forse perché rilassato, forse gasato dalla presenza del pubblico, si lancia nel suo pezzo forte ai concerti. Tutti frutti, good booty. La parola tutti frutti, oltre a essere un famoso gusto di gelato, era usata nello slang come sinonimo di omosessuale. Il brano è esplosivo, ma il testo lascia con la mandibola sul tavolo a tutti. Per quegli anni era porno del duro sentire frasi come tutti frutti, bel culaccino, se non entra non forzare. Puoi lubrificarlo e renderlo facile. Bumps Blackwell capisce immediatamente di avere un hit fra le mani, nonostante quei testi rendano invendibile il disco al pubblico bianco. A risolvere il problema ci pensa Dorothy Lebostri, una ragazza che sognava di scrivere canzoni e che si trovava in studio perché nelle session Little Richard aveva registrato la sua I'm Just a Lovely, Lovely Guy. Dorothy si chiude in sala di registrazione con Richard, che rosso di vergogna, canta la canzone guardando il muro. La ragazza si scrive il testo, qualche appunto e se ne va in una stanza. Torna dopo 15 minuti con il testo ripulito da ogni sconceria. Non sa ancora che è quello di una delle canzoni più emblematiche della storia del rock. Il testo originale di Little Richard era stato scritto quando faceva il lavapiatti a Macon. Ogni volta che gli arrivavano pile di piatti e pentole da lavare, invece di arrabbiarsi e imprecare contro quel dio nel quale credeva molto, urlava. The Carnation sono un quartetto vocale formato nel 1953 dal leader Earl Carroll a New York. Yes, I love you. Sono molto popolari nelle feste studentesche della scuola che tutti i membri frequentano. La loro principale influenza sono gli Orioles, un gruppo doo-wop di un certo successo grazie alle loro languide canzoni romantiche. I Carnation vengono scoperti da Lover Patterson, il road manager dei Drifters, dopo un concerto alla scuola pubblica 43. Patterson, dopo una leggera modifica alla formazione, cambia anche il nome del gruppo e, stanco di tanti fiori e uccelli, si decide per il nome di una famosa marca di automobili, l'elegante Cadillac. Con il nuovo nome di The Cadillacs li presenta Esther Navarro, segretario e compositore dell'agenzia Show Artist. Il primo single per la piccola etichetta Josie vende benissimo soprattutto sulla costa orientale, da Boston a Baltimore e ovviamente a New York. Il pezzo forte non è l'iperlenta Gloria, ma il ritmatissimo lato B, questa I Wonder Why. Yes, I love you, and I place the one above you now. I wonder why I love you like I do so much. Dopo un altro cambio di formazione, nel settembre del 55 registrano il loro più grande successo, Speedo, dal soprannome del leader Earl Carroll, rapidissimo nell'attaccare bottone con le donne. Il brano, ispirato da Got the Water Boiling dei Regals, inizialmente non ottiene successo. I got the water boiling, baby, I'm going to cook your goose. Ma quando il gruppo partecipa allo spettacolo natalizio di Alan Freed, cambia tutto. I'm going to cook your goose. Il gruppo aveva aggiunto le innovative coreografie di Charles Atkins, detto Charlie, un ballerino che diventerà famoso per le coreografie di molti artisti della Motown. Well, I've got a funny feeling that I see your style, mama. Don't you know you really drive me wild? I got the water boiling. Durante le due settimane di durata dello show, il gruppo fa registrare il tutto esaurito ai botteghini, attirando in massa anche il pubblico bianco. Speedo, infatti, entrerà prima nella classifica pop e poi in quella rhythm and blues, fatto inedito per l'epoca. Accompagnati dall'orchestra di Jesse Powell, loro sono The Cadillacs. E questa è l'irresistibile cioccolatino Speedo. Oh, what a crazy party, all the gang's here too. The beat is really jumping like a kangaroo. I'm full of cherry soda and potato chips, but now I want to get a taste of your sweet lips. Oh, dim, dim the light. Dim, dim the light. Con quell'aspetto da padre di famiglia, non poteva certo competere con l'energia di nuovi ruspanti rocchettari come Elvis e Little Richard. Il nascente movimento musicale aveva bisogno di linfa nuova e quel trentenne, goffo, paffuto, mezzo calvo e con quel ridicolo ciuffo che gli copriva quell'occhio malandato, non poteva certo cappeggiarlo. Eppure c'era andato vicino. Nel 55, dopo l'esplosione di Rock Around the Clock, era diventato una star mondiale e si era conquistato sul campo il soprannome di padre del rock and roll. in fondo, era stato fra i primi a infondere al country il ritmo sfrenato del rhythm and blues. Poi erano arrivati quei giovani rampanti e trasgressivi e lui era stato messo da parte, accantonato, anche se va stabilmente nelle classifiche con pezzi come Mambo Rock, Razzle Dazzle o questa Dim Dim The Light, che entra anche nella lista di Rhythm and Blues. But how can I do it with a room so bright, so dim, dim the light. Il 22 settembre si mette in sala di registrazione per rispolverare un brano registrato 3 anni prima dagli Esquire Boys, il gruppo del suo ex chitarrista Danny Cedrone. Donato Joseph Cedrone li aveva formati dopo quella deboluccia versione del classico Rocket 88. Da allora suona in entrambi i gruppi, ma entra nella storia per quel suo velocissimo assolo di impronta jazzistica di Rock This Joint, copiato nota per nota in Rock Around the Clock. Poco dopo la registrazione del celebre brano, il 17 giugno del 54, 3 giorni prima del suo compleanno, Danny cade dalle scale di un locale, si spezza il collo e muore sul colpo. Sarà sostituito da Franny Beecher, che diventerà membro fisso delle Comete. Elle e i suoi avranno ancora un successone con la giocosa See You Later Alligator, poi il lento e costante declino. Nel 1960 si trasferisce in Messico, dove trova una seconda giovinezza, diventando il re del twist e recitando in 3 film in lingua spagnola. Sul finire del decennio inizia apprezzatissimi tour in America Latina, Europa e Australia per nostalgici degli anni 50. Non sarà il padre del rock and roll, ma di certo quello che lo ha popolarizzato. Lui è Bill Haley e questa è la vivacissima Rockabilly Boogie. A boogie, you make it sweet. You get the rock a beat and boogie, rock a beat and boogie beat. Well, the rock a beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock to the rhythm of the rock a beat and boogie, dance to the rhythm of the rock a beat and boogie, shake it to the rhythm of the rock a beat and boogie, jump to the rhythm of the rock a beat and boogie, romp to the rhythm of the rock a beat and boogie. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock, rock, everybody. Rock, rock italiano sembrava perfetto. Lui, che aveva da poco compiuto 18 anni, e i suoi due inseparabili amici, Lawrence Hutchinson detto Skip e James Williams, si sarebbero procurati un po' di soldi con qualche furtarella e la benzina l'avrebbero succhiata da qualche serbatoio. L'idea era di andare nella West Coast, a Los Angeles, con tappa obbligata a Kansas City. Nei pressi di Wentzville s'accorgono che il mondo fuori dal loro quartiere è ben diverso. Affamati come lupi, entrano in un ristorante senza leggere i cartelli. Il proprietario dice loro che non servivano niggers. Se volevano mangiare, dovevano farlo sul retro. Arrivati a Kansas City senza un quattrino, in 5 giorni compiono prima una rapina in una panetteria, poi da un barbiere, usando come mezzo di intimidazione una calibro 22. A detta dei tre, scarica. Quando si rimettono in viaggio, la vecchia Oldsmobile dà il collo. Motore andato. I tre fermano una macchina e Chuck punta la pistola alla tempia del conducente, costringendolo a scendere. Dopo qualche miglio, vengono arrestati e, visto che sono di pelle scura, condannati a 10 anni di carcere da scontare nel riformatorio di Al Gore. Nella prigione, ovviamente segregata, deve fare i conti come ogni altro ospite nero con il terribile Mr. Preston, la guardia carceraria che si vantava di aver bruciato vivo un afroamericano nella piazza di Silverstone. È probabilmente questa esperienza a far scattare la scintilla per la scrittura del lato A del suo secondo single. La storia di un uomo mandato in prigione per un crimine che non ha commesso e dove si respira un senso di frustrazione e impotenza nei confronti dell'ingiusto sistema giudiziario americano. Chuck Berry tornerà in carcere nel 62 per 20 mesi per una storia con una minorenne e nel 79 per evasione fiscale. Ma in questa canzone, in galera, ci starà soltanto 30 days! I'm gonna give you 30 days to get back home. I done called up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. For 30 days. Oh, 30 days. Back home in 30 days. Well, she gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They gonna put a cross charge against you, but that'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Yeah, we're gonna put a cross charge again you. That'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. See that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. dare un seguito a Only You e dimostrare che i Platters non erano il classico gruppo One Hit Wonder, Buck Ram scrive un'altra canzone della quale è già sicuro del successo. L'ispirazione gli viene nel bagno del Flamingo Hotel di Las Vegas, dove il gruppo si stava esibendo. Il doppio sforzo produce un altro hit epocale, anche perché, come scrive il più grande poeta italiano del Novecento, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. La canzone rimarrà per 11 settimane al numero 1 Rhythm and Blues, riuscendo a tenere al secondo posto Tutti Frutti. È incredibile per un gruppo afroamericano. Raggiungerà anche il numero 1 della classifica pop, dove ci resterà per 2 settimane. Dal 55 sono clienti abituali dell'Hit Parade, poi nel 59 iniziano le prime difficoltà. I 4 componenti maschi sono arrestati a Cincinnati per possesso di droga e accusati di aver avuto rapporti con minorenni, delle quali 3 bianche. Non saranno condannati, ma la loro carriera subisce un declino, anche perché molte radio si rifiutano di suonare i loro dischi. Nel 1960 Williams lascia il gruppo per un'infelice carriera in solitario. La band continua con molteplici formazioni e tante controversie legali per l'uso del nome, fino a sparire negli anni 70. Con una 40 di dischi in classifica nel corso degli anni, saranno uno dei gruppi vocali più popolari assieme ai mitici Ink Spot. Con le solite morbide armonie vocali e i consueti testi romantici, loro sono i Platters e questa l'immortale The Great Pretender. Oh yes, I'm the great pretender. One can tell. Oh yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. You're still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. Like a crown, pretending that you're still around. Come nasco con i bambini? Osta, dai, dovrei spiegarvelo un po' per bene, con calma. Mamma, lascia stare. Ho sentito sul cioccolato bianco che nascono facendo rock and roll tutta la notte. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. Il 20 novembre del 55, Bo Diddley è ospite al Led Sullivan Show, il programma più famoso d'America, trasmesso ogni domenica dal canale nazionale CBS, artefice delle esplosioni di fenomeni mondiali come Elvis, Beatles e Doors. I was born one morning when the sun didn't shine. Qualche ora prima della sua esibizione, Bo canticchiava il successo di Ernie Ford, 16 Tones, nel suo camerino. Sullivan lo sente e gli chiede se la può cantare. Bo acconsente. Una volta sul palco, nota il cartello Bo Diddley, 16 Tones. Evidentemente non realizza che Bo Diddley si riferisce a lui e non al suo singolo omonimo, così pensa di suonarle entrambe. Attacca proprio con quel ritmo che richiama Mama Africa e che Sullivan pensava aver brillantemente evitato. Con il gruppo nel backstage arriva come una furia il presentatore, inferocito con Bo, colpevole di non aver rispettato i patti. Il chitarrista deve essere trattenuto dai membri della band per evitare di aprirsi la zucca a metà con la sua chitarra. Sullivan, prima di uscire dal camerino, giura a Bo che non sarebbe mai più apparso nel suo show. Detto fatto, ma poco importava, perché ormai aveva ipnotizzato l'America con quel ritmo palpitante che sembrava provenire dalla giungla. Da allora, nulla sarà più come prima. Pochi giorni dopo l'esibizione al Led Sullivan Show, esce il suo terzo single. Il lato B è questa Bringing to Jerome, scritta dall'uomo che ha portato le maracas nel rock, Jerome Green, ingrediente fondamentale per dare al suono di Diddley quella ritmica africana, trademark dell'originatore. Il lato A è un'altra pietra miliare del suo caratteristico sound. Il brano che ha ispirato il nome del sottovalutato gruppo inglese Pretty Thing. You're pretty thing. Let me buy you wedding ring. Let me hear the choir sing. Oh, always be my wife. Nell'Inghilterra della postguerra era molto apprezzato il jazz ortodosso degli anni venti, in special modo quello di New Orleans. Questa musica veniva catalogata come jazz thread e uno dei suoi grandi esponenti era l'orchestra di Chris Berber, nelle cui fila militava un giovane scozzese di nome Anthony James Donegan, soprannominato Lonnie in onore al grande chitarrista Lonnie Johnson. Nel 1953 il cornetista Ken Collier torna dagli Stati Uniti, dove era stato anche in galera, e convince Berber a mettere su una nuova band di jazz thread. Nel gruppo, oltre a Donegan, c'è anche il futuro padre del blues inglese, Alexis Corner al mandolino. Nelle pause dei loro concerti era consuetudine un breve set fatto di canzoni blues e folk americane, liderato alla voce e chitarra da Lonnie Donegan, accompagnato da un contrabbasso e una tavola da lavare. Per la pubblicazione del loro album, vista la breve durata, dovettero ricorrere a due di questi brani come riempitivi, John Henry e Rock Island Line. Well, John Henry told his little woman, gonna cook my supper soon. Il disco vende pochino, ma la Decca, nel novembre del 55, ristampa su single le due canzoni e fa centro perché è un successo clamoroso. Quando un giornalista chiede a Ken Collier quale fosse il nome di quella musica, lui la butta lì, Skiffle. La parola veniva dallo slang americano ed era sinonimo di rent party, le feste organizzate dall'inquilino per pagare l'affitto, dove si beveva e si suonava con ciò che c'era in casa, brocche, cucchiai e qualche strumento a corda. Lo skiffle non era nulla di nuovo, era un'interpretazione più vivace del folklore americano, canzoni perfette da urlare nei pub con qualche pinta in corpo. Invece è stata una caramella balsamica in quell'Inghilterra grigia e triste, in piena ricostruzione dopo anni di restrizioni e privazioni dovute alle sequele della guerra. Il razionamento era finito nel luglio del 54, lo stesso giorno della pubblicazione di That's Alright Mama. Il single ha un successo eclatante, facendo scoppiare la skifflemania. Ora, qualsiasi gruppo poteva fare musica con strumenti di fortuna e lo scarso investimento di una chitarra, un banjo o un'armonica. Perfetto per quei tempi. Nascono come funghi band di skiffle, dalle quali germoglieranno vari gruppi dell'invasione britannica. Il padre certificato di questa musica è Lonnie Donegan, The King of the Skiffle, un'autentica istituzione della musica inglese. Il musicista più influente della sua generazione, con un impatto decisivo nella svolta della musica britannica. Il brano che lo rende celebre era stato pescato dal folk americano, Rock Island Line, scritta da Clarence Wilson, un lavavetri dei treni della compagnia Rock Island. La La canzone era uno spot pubblicitario per la compagnia, ma ripresa dal gigante Lead Belly, acquista il significato di un treno che va verso la redenzione. La versione di Donegan inizia in modo simile a quella di Lead Belly, ma racconta la storia in modo diverso. Inoltre, rappresenta una novità assoluta. Nessuno aveva mai fatto nulla di simile. Era un tornado d'energia e quell'Inghilterra ne aveva bisogno. Sono preoccupato per la scorta di birra. Dopo questa cassa e l'altra cassa, c'è rimasta una sola cassa! Now this is the story about the Rock Island Line. Now the Rock Island Line is a railroad line and it runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans is a big toll gate. And all the trains that go through the toll gate, why, you gotta pay the man some money. Unless, of course, they got certain things on board, then they okay, and they don't ever have to pay them nothing. And right now, we see a train, she's coming on down the line, and when she get up near to the toll gate, the depot agent shout down to the driver, he want to know what he got on board. So he say, what you got on board there, boy? And the driver, he sing right on back down the depot agent, tell him what he got on board. Yeah, the way he sing. I got sheep. I got cows, I got horses, I got pigs, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, he say, you all right then, boy, you don't have to pay me nothing, just get him on through. So the train go through the toll gate, and as he go through, he got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when he's safely on the other side of the toll gate, the driver shout back down the line to the man. Of course, you don't get what he say now, going home and going down the Rock Island Line. So he said, but I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. He said, tell you where I'm going, boy. Going down the Rock Island Line. Yes, yes, he's a mighty good road. Oh, well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride, yeah. The Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like a fine. You get your ticket at the station on the Rock Island Line. Well, I may be right, I may be wrong. I know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride, yeah. The Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like a fine. You get your ticket at the station on the Rock Island Line. Cats in the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, I see the mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line, I see the mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like a fine. You get your ticket at the station on the Rock Island Line. Hallelujah, I'm seeing the good Lord's coming for to see me again. Sono un quartetto vocale che si esibisce per le strade di Manhattan. Il gruppo apre gli show dei Cadillacs e in loro onore cambia il nome in Coupé de Ville, dal tipo di lussuosa carrozzeria che separava l'abitacolo in due, con i posti anteriori riservati al personale di servizio. Un giorno un dodicenne del quartiere li sente cantare e, notando delle difficoltà a raggiungere le note alte, chiede se può aiutarli con la sua voce forte e squillante. E Il ragazzino è Frankie Lymon, uno che in sala parto, invece del classico vagito, ha cantato Doo-wop. Il nuovo gruppo ora si esibisce sotto il nome di Premiers e proprio mentre stavano provando al Night Community Center entrano i membri dei Valentines. Il leader del gruppo, Richard Barrett, rimane impressionato e promette loro di portare la sua casa discografica, la G Records. Quando il gruppo è in sala di registrazione, fortuna vuole che il cantante principale, Herman Santiago, non si senta bene per via di un raffreddore. Così la scelta ricade obbligata sull'unico che la sapeva cantare, Frankie Lymon. Il pezzo, originariamente, si chiamava Why Do Bears Sing So Gay, dalla frase finale di una lettera d'amore passata da un vicino del gruppo. In studio, però, viene ritoccata nei testi e nel titolo per diventare l'immortale Why Do Fools Fall In Love? Ai discografici non piaceva neanche il nome del gruppo, così, vista l'età dei membri tutti sotto i 16 anni, decidono per Frankie Lymon and the Teenagers. La canzone ottiene un successo sensazionale, ovviamente numero uno rhythm and blues, sesto in quella pop dove ci rimane per 16 settimane e numero uno pure in Inghilterra. L'incredibile notorietà dà la testa al leader che con soli 13 anni non è in grado di gestire nel migliore dei modi il successo. Dopo un buon album con i Teenagers, viene persuaso a intraprendere una carriera solista e abbandonare il gruppo. Sarà l'inizio della fine. La prima battuta d'arresto è nel luglio del 57, quando nello show televisivo di Alan Freed balla con una ragazza bianca, provocando uno scandalo. Frankie scopre l'eroina e ne diventa schiavo. Il successo rimarrà solo un vecchio ricordo, anche a causa del cambio di voce dovuto alla crescita. Dopo essersi disintossicato, nel 68 tenta un ritorno, ma il 28 febbraio viene trovato morto sul pavimento del bagno di sua nonna per colpa di un'overdose di eroina. Aveva vissuto solo 25 anni. Sarà sempre ricordato come la prima stella nera adolescenziale, per quel suo meraviglioso falsetto e per questa Why Do Fools Fall In Love? Perché gli stupidi si innamorano? I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend. And I ain't been kissed, Lord, since I don't know when. The boys in Crescent City don't seem to know I'm here. Era stata la visione del film di Crane Wilbur, Inside the Walls of Folsom Prison, durante il servizio militare in Baviera, a dargli il motivo per scrivere la canzone. Il film l'aveva fatto riflettere molto. Era rimasto colpito dalla violenza della storia alla quale si era sommata una certa empatia per i carcerati, peccatori come lui, in cerca di redenzione. I want that you should go and see and do. La melodia era rubacchiata dal brano Crescent City Blues di Gordon Jenkins, registrato con la moglie Beverly Meyer nel 1953. Ma era tutta farina del suo sacco, quella frase che faceva rabbrividire gli ascoltatori. Ho sparato a un uomo a Reno solo per vederlo morire. Massima espressione della crudeltà umana. Il pezzo, con il caratteristico ritmo galoppante che prenderà il nome di Boom Chicka Boom, diventerà un classico del repertorio di Cash, riproposto magistralmente nel 68 nel live proprio nella prigione di massima sicurezza di Folsom. Questa è la mitica Folsom Prison Blues. I hear the train coming, it's rolling round the bend. I hear the train coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.